6G. Ascolta e trasforma. Sarò in vacanza. Saremo in vacanza. Starò meglio qui. Staremo meglio qui. Saprò presto la verità. Sapremo presto la verità. Dirò tutto. Diremo tutto. Potrò partire subito. Potremo partire subito. Andrò via subito. Andremo via subito. Dovrò studiare tutto. Dovremo studiare tutto.